La ceramica. N. Ascolta il testo. L'arte della ceramica riguarda la fabbricazione di prodotti formati da un impasto di acqua e terra, lavorati a mano o meccanicamente, seccati e poi cotti. I prodotti più semplici sono quelli fatti di terracotta, mentre le ceramiche più ornate sono rivestite da vernici trasparenti o da smalti. L'arte della ceramica italiana è famosa nel mondo per la qualità del decoro e per la varietà delle forme. La più antica ceramica italiana esisteva già nel periodo preromano, con tecniche molto raffinate che rappresentavano sia scene di vita quotidiana, sia decorazioni geometriche astratte. Il momento di maggiore evoluzione è il periodo rinascimentale, con un'esplosione di colori, scene e forme vivaci. Le botteghe di questa lavorazione artigianale si trovano sparse per tutta l'Italia, specialmente in Umbria e in Toscana. Deruta è famosa per la sua arte di far ceramica, con una tradizione che risale al Medioevo.